alle 10, c'è qualcuno? Allora, perché alle 10? Hola, hola, hola. Hola. Attenzione che alle 10 c'è qualcuno. Hola, attenzione alle 10. Ecco, ci sei. Eccomi. Cosa state facendo? Controlli? Sì, sì, no, controlli più che altro di ventole. Sistemazione di ventole per vedere se si sentiva con l'amplificazione del microfono, invece non disturba minimamente, anche con la portante bianca si sente appena proprio tutto ok, è rientrato tutto nella norma. Medugai, e io pensavo che fosse una ruota, capito, che non fosse spostata. Vabbè, non pensavo di disturbare su di. No, no, era una ruota un po' sgonfia, in due eravamo. Vabbè, guarda che se la fanno qua proprio non mi interessa, non sono di quelli che se la prendono perché stanno provando, no? Anzi, a me piace ascoltare, vedere, ascoltare anche a me. Anzi, no, senza nessun problema, dai. No, spesso Valentini, comunque Claudio già prova lì sul 20, fa i test, diciamo. Sì, sì, ho visto che a volte vanno sul 20 a provare. Vabbè, comunque. Ma sai che mi hanno chiamato all'ospedale? Ma per l'intervento? Insomma, un po' così. Allora, praticamente io lunedì devo andare a fare il tampone e prendevo del sangue per vedere il gruppo sanguigno. Adesso me l'avevano fatto il prelevo, lo voglio rabbedare in chimica. Vabbè, comunque sono di riserva, se per caso uno ritrova il coronavirus o c'è qualche valore scompensato, roba del genere, rinuncia, mettono a me, capito? Non sono fisso, sono di riserva. E in panchina, sì, dai, in parcheggio con le quattro frecce. Se si dovesse liberare un posto e ti inseriscono subito. Se no devi aspettare ancora così. Vabbè, purtroppo sì. Io spero che qualcuno rinunci, boh, che non venga, che boh. Perché io glielo ho detto, era un'urgenza a capo, dobbiamo aver messo l'ultima volta del carro, boh. Oh yeah, se sanità. A singhiozzo qua in Sardegna, mamma mia, siamo messi male. Sì, a capo di clinico ti chiamano subito. Mi chiamano subito al policlinico, invece all'ospedale civile ci ho messo un bel tempo, mesi. Abbassa un po' la musicazione, si sente tutto. No, era quella, stavo parlando col cazzo. Abbassa, intanto sei un bel forte qua. Guarda adesso, va bene. Sì, così più da salotto, dai. Appagato. Perché era qua, si è sentito per questo. Anche adesso abbasso anche di potenza. Cosa? No, ho abbassato anche di potenza. Aspetta che accordo un po'. Ok. Mi ascolti lo stesso, sì. Sì, a Puglia. Sempre bene. Così sono 4 e mezzo, dai. Qua di 5. Appagato. Sì, no, ti ascolto benissimo. Non c'è problema. Non proprio 4 e mezzo sono. Sì, siamo vicini alla linea d'aria, siamo poco più di un chilometro forse. Aspetta, ecco, devo rispondere a un messaggio. Sì, yeah. Tu mi dirai anche che ora è, che devo avere un appuntamento. Ehi, ecco. Mi dici per cortesia l'orario? Le 7. Tra un po' devo andare, io ho un appuntamento, devo uscire, devo vestire ancora. La doccia l'ho fatta, tra un po' ti devo mollare. E vabbè, non c'è problema, fra, già entrerà qualcuno, tanto entra Roberto Quadrato la sera, chiedo arrugginito, più tardi entrano, ma già entrano. Sì, l'altro giorno ho sentito, faceva DX, Chiolo, gli piace molto fare DX? Sì, gli piace. Poi c'è una bella zona lì, zona alta, aperta sicuramente, si è predisposto, dai. Adesso questi li senti tu? E chi, fra? Questi che sono, li sento come tipo QRM, però sento che stanno parlando. No, non sento nessuno io. Quindi appena io li sento, proprio a livello di QRM, però si sente che è un segnale straniero basso, dai. Sì, Sì, adesso invece di te anche io facendoci caso. Sì, da appena appena, si sente quando innescano, quando attaccano dei portanti, appena appena, ma ancora non si comprendono, sono incomprensibili. Sì, anche io ricetto così, ricetto proprio poco. Se la metto ancora mi ricordo. Mi lo senti, adesso sta parlando. Io pensavo che tu di sentissi più forte, visto che sei aperto. Dipende da che zona. Questi saranno... No, scusate, dalla Spagna sicuramente, quelli che arrivano così sono spagnoli in genere. E Giulio sta entrando? È un po' che non lo ascolto. Ah, Giulio, anche io, ma sarà una settimana forse che non lo sento. E quindi ogni tanto già si fa sentire, dai. Sì, già è entrata. Perché diciamo, se mi ricordo gli faccio una chiamata così almeno a sentirlo, poi come sta. Aio, entra in V, ti ascolto, aio, entra. Se dici così non entro. Sono vergognosi. Hai visto che caldo che ha fatto stasera? Anche se non c'era molto sole. Poi eravamo attorno ai 28 gradi. Sta aumentando la temperatura, boh, non sembriamo anche in ottobre. Lui mi ha fatto una bella pescatina al Ghiero, ma c'era un mare che sembrava un lago, uno spettacolo qua. La temperatura dell'acqua è bellissima ancora. E che al Ghiero è sempre fredda. Cosa hai preso? No, sono andato a fare un po' di polpi e basta, col gancetto. Ah, presole. Sì, ne ho fatto un'oretta, sono stato perché poi Anna doveva rientrare, quindi ero senza orologio, con la paura di fare tardi, alla fine invece ho fatto un'ora, invece di fare 2 ore a bagno ne ho fatta solo un'ora. Vabbè. Certo, è interessante che ci sia stato mamma mia. Sì, infatti appena ho visto che c'era il tanto, sono uscito. Uno quello mi ha dato la mattana, solito della tana, infatti è uscito che era un po' mal ridotto, un po' graffiato, col gancio un po' scorpiccato. Asco, ma sei stato con la muta? Uso quella estiva ancora, quella mezza manica, dai, uso sempre quella. Ancora con l'invernale non lo metto, anche perché mi sa che ormai mi opprime, forse è un po' piccola oppure ha perso l'elasticità, e in ogni caso da cambiare. Dai. Comunque ti sei divertito, là, c'era la persona. A bagno sì, fuori c'era la signora. Era di lunedì, quindi c'era qualche turista e basta, in giro, subito curiosi, poi quando esci dall'acqua vogliono vedere, vogliono toccare i bambini, a volte neanche la faccia intera, a volte cerco di nasconderli in mezzo alle pine, ma quando sono grandi e si vedono, là. Poi non lo sanno che musicano, cazzo, a me mi ha musicato la sigla, io non sapevo che musicavano, che mi ha fatto un mosso, c'è tutto un sicchio. Io la mano, perché sono andato anche sabato, mi sembra, sono andato anche sabato, tra le nocche della mano sinistra ho un paio di morsi, poi non te ne accorgi dopo che ti ha morsicato, no? Perché tu vai a staccartelo e si porta via un pezzo di non dico di carne, ma di pelle sicuramente, ti esce un po' di sangue, però dopo qualche giorno va via. Sì, ma quindi cosa stai prendendo, moscardini oppure polpi grossi? No, ormai sono già da chilo, anzi forse uno era un paio di chili, uno era grosso, quello che mi ha dato mattana a toglierlo perché non l'ho raffiato bene, sicuramente non l'ho preso bene all'inizio, quindi ha avuto il tempo di andare più in fondo alla tana e di arrabbiarsi, capito? Quindi mi ha dato un po' di mattana a toglierlo. E dove sei andato esattamente? Io sono andato lì Alghiero, tra Alghiero e Maria Pia, dove sono scogli, quei scogli con un paio di metri d'acqua, iniziano così, poi ci sono anche in acque profonde, ma li ho fatti nell'acqua bassa, un paio di metri d'acqua. Ho capito. E io andavo a Punta Negra, quando eravamo in campeggio, perché quando eravamo ragazzi, abbiamo organizzato un campeggio con ragazzi, ragazze e cose, però non avevamo quattrini, eravamo tutti spiantati, eravamo studenti, e abbiamo portato una cassa di patate da arrostire, qualche qualche scatoletta, qualche cosa così, un po' di verdura, insomma ci siamo arrangiati. Poi abbiamo finito tutta la roba e allora c'è dovuto provare, se noi volevamo tutti andare, no aspettate che tu a pescare, ma se non è freddo, questo e quella. Poi quando uscivo con i pulpi li facevamo arrosto ancora vivi, li mettevamo sulla graticola e mangiavamo i boi, pesce, la roba che pescavo. Guarda, avanti ieri se avete avuto un fucile anche piccolino, ma sai i mugini che c'erano, i mugini quelli grossi da fondale, cazzo ogni bestia, mai visti così, così tanti e così vicini, sai che mai ti porti il fucile e scappano. Il mugine diciamo che bisogna anticipare un po', col fucile ad aria compressa bisogna anticiparlo un po', se lo spacca in due poi, però bisogna anticiparlo perché è un bel veloce, e invece col fucile elastico già va bene, con due elastici riesce a prenderlo tranquillamente, però a me è un pesce che non è mai piaciuto il mugine, forse perché l'ho visto al produttore, se mangia di scarichi della Fonia e da lì vi ho fatto la brutta impressione e non lo sopporto, oppure lo sento sempre un po' amarognolo, me ne hanno regalato perché c'ho amici che pescano e cose, ma se sempre un po' di amarognolo ce l'ha. E devi togliere quel velo nero che hanno all'interno e quello vi darà un po' di amarognolo. No, ma quelli del fondale, quelli sono buoni. Ne ho preso un anno a Portoferro con la canna, però con la a galleggiante, col fiocco di pane, praticamente peschi a galla in superficie, ma quelli no, non buoni, di più, poi sono quelli perché quando lo ferri lui si incazza, no? E tira come un demonio, Lo so che fa così, l'ho preso anche io, lo so, ma a Portoferro si riprendevano con le ancorette, senza metterci le scale in una, lanciavano le ancorette in mezzo al branco, poi tiravano, ce ne attaccavano due, tre, e li usavano per fare la pesca alle spigole, da vivo, li mettevano a mano nell'acqua e li usavano come vivo. Sì, sì, ci vuole l'acquario con un bidone oppure con un direttore, dai, li metti dentro, ci vuole la pompa per muovere l'acqua, se non ti muovono, per campare parecchio ci vuole l'ossigenatore e ti durano anche settimane in casa, ti fai varie pescate, sì, ho un collega che la pratica con la pesca lì, col vivo, e va a farti i muginetti, va. A Portoferro si vede tutti lì, ci ingrassavano bene e aspettavano dove c'era lo scarico e mangiavano tutto, poi trovavi i topi di tutti e di più, per carità, qua. Io non lo so se sia ancora così, se l'abbiano depurato, cosa, però prima ne uscivano i pezzi della roba carteggica di tutto. Sì, me lo ricordo anch'io lì, proprio vicino a dove c'è quel bar adesso. Lì c'era proprio lo scarico e loro erano a bocca aperta lì pronti a mangiare, mamma mia. E tutti a galla a bocca aperta erano, perché tanto ne ha mugine, ma grossi però, solo che non sono buoni, capito, li usavano, quelli piccoli li prendevano per pescare, come ti ho detto, li usavano per quello, boh, basta. E lì c'erano anche ricciole, spigole, di tutto, perché riuscivano pure i topi di Fonia. Spero, come dici tu, che non sia ancora così. Ma penso che adesso, con la storia dell'inquinamento, abbiamo depurato tutto, ci sono le depurature. Ma prima usciva libera la Fonia, e quella lì era quella che veniva anche da Sassari, sicuramente. Quella che passa, per intenderci, dove c'è il ponte che porta la città Bercattoli. Ah, quella, la Fonia proprio, quella di Sassari, esce... Dove c'è quella zona archeologica, Ponte Romano, la zona lì? Lì c'è un fiume che c'è, no, che arriva da Sassari. Perché il rio, non è meno. Quello della Cruca comunque dovrebbe essere. E poi c'è lì a Porto Torre. Anche lì comunque ne becchi mugini belli, spigole lì. No, quello dentro il porto di Porto Torre erano scarichi di qualche bar dell'albergo che c'è lì di fronte. Se è la roba di città, ma no, mi sembra è una roba continua, non è possibile fra che fosse solo dall'albergo, perché lo scarico era continuo, stava sempre uscendo roba. Sì, ma non Fogna, diciamo, a livello di un fiume, dai, era uno scarico di un tubo, sicuramente, o una zona bassa lì di Porto Torre che scaricava in qualche vecchia condotta magari. E c'erano diversi discarichi, c'era anche uno dove attaccava la nave prima, c'era anche uno lì, io me lo ricordo perché da ragazzino ci andavo, mi divertivo, andavamo con gli amici a prenderli con l'ancoretta, ma dopo li buttavamo in però ho sempre odiato il Mucine. A me quello che mi piace sono le orate. Le orate nemmeno le spigole, le orate le mangio volentieri come pesce, anche le prime mi piacciono bene. Abbiamo preso una che c'aveva le mussate grossi grossi con la carne. E anche al fucile qualcuno ha preso le triglie, stanno sul fondale, no? Sono gruffolatori. E la triglia c'è una bella polpa, sai che c'è un bel di spine, ma ragazzi. Invece orate, spigole, saraghi, di pezza, dai, di bella, di almeno 500 grammi. Le spine sono abbastanza grandi, le trovi facilmente, ma la triglia la mattana. E mi ha fatto la cornese, è buonissima, buonissima, proprio c'è un buon sapore. Sì, sì, no, a me del mare piace tutto. Io invece andavo a pescare da ragazzino, con il motorino, andavamo qua dove c'erano le gru, diciamo all'uscita quasi del porto, l'uscita verso il mare aperto, dai. Lì mettevo qualche cannetta lì, a pelo di banchina, e c'è qualche bel sarago si prendeva. Io andavo al passetto a pescare, al passetto oppure al monoasi, no, al monocattare, non al monoasi, monocattare, al monoasi non mi piace. Al monocattare ho preso delle belle orate io, belle orate, saragoni, di quelli reali, di quelli saraghi pizzutti si chiama. E il reale c'ha le, un po' rimane delle righe. Poi c'è quello fasciato, c'è la coda nera, quindi il pizzuto c'è un po' a punta al muso, quello più diffidente. E poi ho preso anche, come si chiama, ma quello che rimane come il sarago, però rimane scuro, faccio la sua punta della lingua, non me lo ricordo come si chiama. Ho preso anche quella lì, bella grande, un chilo e due ha preso. Tanuta? Esatto, la tanuta, non mi veniva il nome. Di quella un anno ero lì, mare di fuori, però pescando verso l'Argentiera, la zona lì, molto ruginoso. Che avevo lo 0,12 mi sembra, 0,14 come terminale. Quando andavo a portarlo su dalla scogliera e spesso e volentieri si spezzava la lenza, quando lo fornavi su di peso, capito? Perché non potevi scendere perché c'era un bel di mare incazzato. Io la tanto non so come l'ho presa, il giorno non avevo esca e siccome io lavoravo in pescheria mi sono comprato un po' di bocconi, mi sono andato con i bocconi, ma detto non mangia con i bocconi, quindi molto durissimo, non è che lo mangiava. Ho preso uno a pelo di banchina e due le ho lanciate lontano. Allora la prima che ho lanciato ho visto subito la canna tirare, ho detto ma forse c'è corrente, non è possibile, come ti ho lanciato giubilando un uccione, quelli che chiamano occhioni, tipo palamita rimane. Sì, lui per la fame l'hai preso. Come ho lanciato, si è tirato, deve essere che sono predatori, non lo so, come ho lanciato, ho visto la letta parte, ho detto forse c'è corrente sotto, e invece l'avevo preso, ho preso quello, poi quello che era quello di banchina, ho preso la taluta, bella grande, e gli ho chiesto uno, non so, ma non prendi il copo che era lontano, dice sì, sto arrivando, veniva piano piano per farmelo perdere, no? Alla fine mi ha mollato la frizione, sono andato, ho preso il copo e me l'ho giocato io. Ci ho fatto bombo, tu vai una gara, se vuoi tutta la sera, no, che non ho pigliato nulla. Hai visto, il boccone non serviva. Io lo so. Capita. Dai, io vado a prepararmi, ti saluto e ci sentiamo alle prossime, dai, un abbraccio, ok? Ciao Fra, stammi bene, dai, buona girella. Ci sentiamo. Avanti se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare. La muela por favor, por favor. Le mire bajo, le amo. Ti sta fischiando? CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Chiudi! Avanti, chi è? Ciao Natalino, buonasera. L'uomo nero. Grazie, l'uomo nero. Bobo. Tu sì che ti nafutti. Beh, che c'è lì, c'è lì? Sì, avanzo con due remi, mi ansura. Tu sì che te ne freghi, la faccia mia, Bobo. Gappa. Tutto a posto? Cazzo, me ne hanno rubato... l'antenna VHF, quella piccolina che c'avevo nella macchina, mi hanno rotto lo stilo dove si infila lo stilo, mi hanno rotto quello lì e ci hanno portato via lo stilo. In mano vi dovevo via rimanere. E da dove te l'hanno rubata? Dalla macchina. Ma da sotto casa tua? E allora, era lì alla fermata del tram posteggiata e me l'hanno rotta proprio. Hanno rotto dove va attaccata a me, quell'antenna. Hanno rotto quell'attacco lì dove ci va la galletta. Allora non si vive più. Per carità, è gente di merda che c'è. Boh. Anche l'antenna si attaccano, va. E che poi cazzo non se ne va in un cazzo. Si hanno portato via il pezzo dello stilo e hanno rotto dove era attaccata, che doveva essere la giada, questa cosa, non lo so. Non era di quelle a vite, era fissa, era una di quelle antenne vecchie, bella, fanciullo. E magari hanno fatto la stracciata, capito? L'hanno tirata, l'hanno spaccata. E allora l'hanno impaccata, hanno spaccato il pezzo dove si entra. Boh, andemmo. Va bene, mi stai ascoltando, ero da molto che non accendevo questa radio. Sì, che ti sta ascoltando bene. Ho chiamato quell'antenna su. Già me l'hai detto che ti è successo un casotto. Allora, praticamente non era rotta, si è sfilata dalla fascetta, non so come ha fatto. Quando sono salito ho visto che era, l'ho rimesso la fascetta, l'ho riguardita, praticamente gli ho lasciato quella, capito? Ho cambiato, ho lasciato quell'antenna che c'era. E infatti, si era giuro, forse non era stretta bene. Sicuramente no, perché la fascetta quando l'ho controllata era mollata, quindi ho detto, ma sicuramente non l'ho stretta, magari con la fretta di piazzarla e me ne sono dimenticato. Ho visto che sta funzionando bene, stazionare non è ame, diciamo che va benissimo. E te credo, no, già funziona bene quell'antenna lì, perlomeno è anche la posizione quella che hai tu. Sì, più che altro la posizione. La posizione già è buona. Ho comprato una multibanda per la macchina, l'HF, è bella, ragazzi. Sì, diciamo che è un'antenna così, però già va bene, dai. In definitiva. Sì, infatti. Io ho comprato l'antenna multibanda per la macchina. E vi russo. Ce l'ha Marcolino Condor uguale. Della Proxel, la PX1, la PX1 è multibanda. Ma qual è quella VU? No, per le HF è a 1,84 m. Ah, ho capito, sì. Quella che c'ha gli spinotti da mettere per le bande lì. Almeno in macchina lo puoi usare. Eh beh, certo. Comunque le esami sono il 10 di novembre. No, hanno fatto slittare, non si sa quando sono. Dovevano iniziare dal 14 al 18. Però deve essere, sono incasinati, quindi non si sa quando iniziano. Boh, io so che erano il 10. Qui non lo so se li hanno sforzati, anche perché io non stavo seguendo molto bene la questione ecologica, tutto lì. Sì. E a noi ci hanno detto così, che li hanno fatti slittare, evidentemente sono incasinati, perché stanno spostando tutto, non so, un macello là, praticamente. Adesso non si sa quando è la data là. E andavetto, va bene. Infatti io quando sono salito di Rosetto ho trovato il pezzo del puntale, la metà della, si è attaccato proprio da sotto e dalla base, dallo stilo centrale, diciamo, l'ho trovata sulle tegole, poi gliel'ho rimessa a posto, l'ho controllato, era piena d'acqua, cazzo, era piena d'acqua perché quando ha piovuto non c'era lo stilo, quindi è filtrato all'interno della carica, quindi ho dovuto svuotare tutta bene, ci faccia bene rimontare, ho visto che già va bene, se no, ma proprio per buttare via, poi ho detto se non funziona la casa, invece ho visto che sta funzionando e praticamente ho lasciato questo. Sì, vabbè, va, non entra più Eva, e fa cosa non vedere lo stilo che è entrata. Adesso comunque non è troppo, no, ma già funziona bene, ovviamente. Ha fatto tutto quel vento che me l'ha tirato a fuori, meno male che era una strada. Oggi c'era la riunione, ho visto che c'era Laura. Tu lo sai dove si spediscono gli apparati per farli riallineare? Franco. Oh, Fra. François.